qualche incanto a qui sempre agonio, essere in due col tanto. Sì, ma no, nell'entrar o punto sono sogno. Chiudo gli occhi nel pensiero allora la giumale bianca in fondo al bosco nero, la tota e la platina vogliame ruscelli chiari il frassame canta ninni con gli audre. Oh.